Allora, ed eccoci in voce, oggi con Etopia Massima, con la rubrica Emergenza Zero. Oggi, visto la ricorrenza di questo fine settimana dei 20 anni dalla tragica alluvione avvenuta a Sarno e 15, l'argomento con cui vogliamo iniziare questa puntata è proprio riguardante quanto successo a Sarno e dintorni, e quanto è stato fatto e com'è la situazione attuale. Ne parleremo insieme a Ciro Manzo. Ciro, ci senti? Sì, buonasera a tutti. Buonasera Ciro, grazie per aver accettato l'invito. Ciro è un geologo, come potrete sentire dal suo accento, non è di Domodossola ma è dell'area del napoletano, quindi particolarmente attento ai temi del suo territorio. E Ciro, se ci vuoi ricordare, anche se comunque molti di noi già sicuramente lo sanno, cosa è successo in quei giorni di 20 anni fa? Beh, praticamente 20 anni fa Sarno, 15, Bracigliano e altre cittadine furono interessate da frane che uccisero 160 persone, e solo Sarno contò 137 vittime, una delle tragedie legate ai fenomeni franosi più brutte, una pagina brutta della nostra storia italiana. E di cui ancora oggi, se provate a guardare Google Earth, potete vedere le ferite, sia legate alle frane sia a quello che è successo poi successivamente nella ricostruzione. In pratica, in quel periodo ci furono delle piogge molto abbondanti. Tra il 4 e il 5 maggio si stima caddero intorno ai 160 mm di pioggia. Per avere un'idea, guardatevi la vostra mano, dalla punta del medio al centro della mano, più o meno quella era la quantità di pioggia che è caduta su tutto il territorio in quella zona. E una pioggia tuttavia non così eccezionale, perché un periodo di ritorno di questa tipologia di piogge è dell'ordine dei 15 anni, però venivamo da un periodo anche abbastanza piovoso, quindi tutta quest'acqua è caduta sulle aree montuose limitrofi a questi comuni, che hanno una particolarità geologica. Hanno accolto nel corso dei secoli i materiali che il Vesuvio ha eruttato nel tempo, soprattutto ceneri, labilli e pomici, che hanno un diverso comportamento nell'accogliere l'acqua, diciamo così. E tutta questa pioggia non ha fatto altro che appesantire il terreno e alla fine lo ha quasi liquefatto, per intenderci. Quindi la pioggia è caduta su un terreno già saturo, quell'evento, sì, diciamo, esatto, eccezionale, ma non troppo, è caduta su un terreno che già aveva delle problematiche di suo. Sì, e in pratica questo fenomeno ha interessato una quantità di materiale dell'ordine dei 2 milioni di metri cubi di suolo e altro materiale che sono stati mobilizzati, e hanno coperto, fate conto, a Sarno l'altezza media di questo di questa coltre era di circa 2,5 metri in diverse zone. Quindi parliamo di tanto materiale che è caduto dalla montagna. Materiale che è caduto dalla montagna ovviamente per dei fattori legati alla pioggia, perché aveva piovuto tanto, ma come abbiamo detto prima non così tanto, ma c'erano tutta un'altra serie di fattori che hanno contribuito all'innesco di queste frane. Pensate che nell'estate precedente si erano contati almeno 3 grossi incendi in questa zona. Nel tempo l'uomo o si è completamente disinteressato di alcune zone, abbandonando dei terrazzamenti che erano in essere con delle colture che c'erano, oppure ha sostituito degli alberi come querce e castagni per mettere un'attività intensiva di produzione di nocciole, dei noccioleti, e per accedere a queste attività hanno costruito delle stradine di montagna che hanno ulteriormente appesantito il pendio. Inoltre, a parte il problema a monte, avevamo dei problemi a valle, perché l'abusivismo edilizio, l'abbandono degli impluvi, cioè quei posti dove quando piove l'acqua si va ad accumulare e fluisce, erano abbandonati a loro stessi, pieni di terreno, pieni di alberi, in alcuni casi di immondizia, oppure alcuni di questi ci avevano costruito sopra, quindi diciamo che l'abbandono del territorio era abbastanza forte e in alcuni casi anche lo sfruttamento intensivo. E tutte queste cose hanno contribuito a questa immane tragedia, perché diciamo 160 morti in poche ore sono una quantità allucinante. E il paradosso maggiore è che uno degli edifici che è stato colpito è stato l'ospedale di Sarno, che ha contato anche alcuni morti, intorno alle 6 persone, no, anche insomma siamo sotto la decina, perché c'erano sia medici che pazienti che stavano lì nell'ospedale. E un luogo come l'ospedale, che dovrebbe essere un luogo di sicurezza, un presidio dello Stato sul territorio, che dovrebbe consentire alle persone di essere curate anche in situazioni di emergenza, alla fine è stato inondato da questa frana. Quindi c'è stata una serie di concause, di vari fattori che si sono accumulati nel corso del tempo, che hanno portato questa precipitazione, come dicevamo, forte sicuramente, 160-200 mm d'acqua sono molti, ma non dovrebbero essere sufficienti a creare un disastro di quelle proporzioni con 160 morti, e in più anche la posizione di alcuni edifici. A me viene in mente, adesso che hai parlato dell'ospedale di Sarno, di edifici come la prefettura dell'Aquila, che è un evento completamente diverso. Marco, scusami, per alzare il volume perché non sento. Sì, mi senti? Sì, okay. Ora ti sento. Dicevo che un evento come questo, che ha portato alla distruzione di un ospedale, quindi di un luogo che dovrebbe essere sicuro, mi ha riportato alla mente quanto successo all'Aquila, per carità un evento completamente diverso, però anche lì la prefettura, la casa dello studente sono degli edifici pubblici che dovrebbero avere una resistenza diversa perlomeno, e che invece sono stati colpiti da, in quel caso un terremoto, in questo caso da un'alluvione. Diciamo che da questo punto di vista cambia solo il fattore che causa distruzione, però in fin dei conti le modalità legate all'incuria della gestione del patrimonio edilizio e del territorio sono poi evidenti in diverse parti d'Italia e le ritroviamo in diversi disastri. Quindi è chiaro che laddove non c'è interesse per il territorio, c'è un abbandono di esso, la tragedia è molto più semplice che accada. Diciamo che la percezione che tra virgolette di onnipotenza dell'uomo, che tutto risolve con una colata di cemento, è troppo statica rispetto a un territorio che è in continua evoluzione. Ripeto, sui monti di Sarno si sono accumulate almeno 6 metri di depositi di eruzioni del Vesuvio in quasi 3.700 anni. Noi non abbiamo questa percezione perché viviamo un tempo troppo ridotto rispetto a quelli ai tempi dei fenomeni geologici. Quindi non abbiamo neanche la percezione di come noi possiamo in alcuni casi contribuire ad aggravare determinati disastri, però diciamo non tutti, perché diciamo il geologo da questo punto di vista ha questa percezione e molto spesso cerca di trasferire questa sua percezione anche ai decisori politici e alle varie rappresentanze sociali. Il problema è che a livello della società non abbiamo questa percezione. Faccio conto che ad esempio a Sarno ci sono ancora pratiche di condono, se non ricordo male 6.000 condoni sono stati fatti dopo il 98. Dopo una tragedia del genere, in un comune che ha contato i morti, abbiamo ancora questa pratica del condono. Perché dimostra il fatto che è successa questa cosa eccezionale, ha piovuto tanto e poi vabbè, poi Dio vede. No, perché ci sono delle conoscenze, delle competenze scientifiche legate al territorio che permettono di evitare questi disastri. Io avevo letto in un report di Legambiente, se non mi ricordo male, che circa il 10% degli abitanti dell'area è ricorso ad ha chiesto pratiche di condono edilizio. Quindi questo più o meno come ordine di grandezza fa capire che in effetti lì in particolare, ma non è soltanto lì ovviamente, è un tema che vale per tutta Italia, l'assenza di cura verso le culture, l'abbandono delle culture, per esempio un problema che di cui abbiamo parlato nel caso delle alluvioni in Liguria, per fare un esempio. Però lì in particolare c'è anche questo discorso di abusivismo edilizio, o magari di costruzione, prima si costruisce in posti dove non si dovrebbe e dopo si chiede il condono, magari ostruendo vie di fuga per la popolazione o per l'acqua stessa. Sì, diciamo che la lesson, quello che è stato imparato dopo Sarno è stata la legge che ha portato quel suo nome, legata proprio alla predisposizione delle mappature di rischio. Diciamo che è stato una delle tante leggi che abbiamo in Italia legate all'ambiente che nascono successivamente a dei disastri, e questo non, diciamo, in un paese civile non può funzionare. Noi non possiamo pensare di basare la nostra legislazione sull'onda dell'emozione che ci causano determinati eventi. Ci vuole anche un minimo di pensare sul lungo futuro, anche perché viviamo in un territorio molto fragile che è stato in diverse parti d'Italia, perché l'abusivismo non c'è solo in Campania o nel sud, però viviamo in un territorio molto fragile da un punto di vista geologico, abbastanza giovane, e quindi fenomeni come frane, alluvioni sono cose che accadono. Fate conto che più dell'80% dei comuni italiani ha aree a rischio idrogeologico, quindi significa zone, circa il 15% del territorio italiano rientra in una categoria di rischio idrogeologico, e in tutto questo ogni anno continuiamo a consumare suolo, continuiamo a urbanizzare, continuiamo a eliminare aree naturali che tra virgolette sono degli argini a fenomeni come questi, perché permettono di ridurre l'impeto delle acque o permettono un miglior funzionamento di tutto il sistema ambientale, e questa percezione non riesce ancora a entrare nella società. Quindi anche il discorso del condono io lo condanno fortemente, ma è anche esempio di una profonda mancanza di conoscenza da parte della popolazione. E diciamo che il geologo dovrebbe passare dall'essere una Cassandra, quindi uno che dice attenzione che verrà una frana, ad essere più protagonista dell'azione proprio a livello sociale legata all'ambiente. Beh, del resto la nostra rubrica si chiama Emergenza Zero proprio per questo motivo, cioè perché non si può agire sempre e solo sull'onda dell'emozione, sull'onda del singolo evento, e non solo agire, anche lucrare ovviamente, perché conviene chiaramente agire in emergenza tramite decreti, fare le cose di corsa, perché si possono aggirare molto più facilmente le regole, ed è un qualcosa che avviene più o meno regolarmente in tutti i casi che abbiamo visto, di cui abbiamo parlato durante le nostre trasmissioni. E purtroppo, poi Marco, sai una cosa? Sì. Il paradosso maggiore è che noi non impariamo mai dai nostri avi, nel senso che ad esempio nella mia zona i Borboni hanno costruito tutta una serie di canali di regimentazione delle acque, proprio perché ci tenevano al territorio, sapevano che una coesistenza bilanciata col territorio prevedeva anche una sua manutenzione. E i Regi Lagni sono stata una grande opera fatta dai Borboni, e c'erano anche nella zona di Sarno, ma erano totalmente abbandonati. Un'opera che avrebbe permesso di far defluire le acque più velocemente, di non lasciare di non ingolfare il sistema idrografico, era abbandonato a se stesso. E noi dovremmo imparare anche un po' dai nostri avi, riprendere anche un minimo di cultura agricola del passato, come hai detto tu prima, no? I terrazzamenti che ci sono in diverse zone dell'Italia permettono delle colture di pregio, ma anche di gestire il territorio in maniera ottimale. Cioè, una volta che l'uomo ha messo le mani sul territorio, lo deve continuare a gestire, perché abbandonarla a se stesso non sempre significa va tutto bene di nuovo. Ci sono alcune zone della Calabria dove l'abbandono del bosco ha fatto sì che aumentasse il rischio idrogeologico, perché la quantità di sottobosco che cresce è tale per cui si appesantisce il pendio e si innescano più facilmente frane. Quindi c'è bisogno di anche di oculatezza nella gestione del territorio in senso stretto. E allora Ciro, intanto io direi che possiamo far partire la prima pausa musicale, dopodiché tra 3 minuti, quando torneremo, magari parliamo di cosa è stato fatto dopo questo evento, dopo l'alluvione di Sarno, cosa è stato fatto per, tra virgolette purtroppo, mettere in sicurezza il territorio. Quindi a tra poco, ci sentiamo in voce tra pochi minuti. Ciao. Ed eccoci di nuovo in voce, stiamo parlando con Ciro Manzo, un geologo di quanto è avvenuto a Sarno 20 anni fa e dell'alluvione di Sarno e 15. Prima di continuare volevo ricordarvi che la radio non campa di aria e se volete fare una donazione, una sottoscrizione, potete utilizzare il conto corrente postale 61 80 40 01 intestato alla Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, via dei Volsci 56 00 185 Roma, e l'indirizzo è lo stesso se volete passare qui in radio per fare un saluto, per vedere di persona quello che facciamo. Allora ritorniamo con Ciro, ci siamo, Ciro mi senti? Sì, mi sento, sono qui. Ci siamo lasciati dicendo che avremmo parlato di cosa è stato fatto in questi 20 anni per mettere in sicurezza il territorio dopo l'alluvione. Beh, dopo 20 anni diciamo che le stime dicono che l'85% delle opere da fare è stato completato, quindi non abbiamo ancora fatto tutto. Sono stati spesi 400 milioni di euro per una serie di opere di sistemazione che si focalizzano in due tipologie principali, vasche e canaloni, quindi una grande colata di cemento che parte dalla base delle zone dei canaloni montani e arriva poi in queste vasche, dove in teoria questi prodotti che vengono in queste frane o le acque che scendono dalle montagne dovrebbero essere accumulate. Però anche questo è un esempio tipico di come dinanzi a un problema noi ci approcciamo sempre considerando il territorio statico, cioè facendo delle opere di difesa passiva del territorio, cioè io devo proteggere la mia casa, il mio abitato, vado a mettere una protezione di cemento che mi protegge da un eventuale altro evento, ma tra virgolette non rilascia niente sul territorio, non lo abbruttisce. E sfido tutti quelli che ci stanno ascoltando a utilizzare Google Map, digitare Sarno e guardare queste linee bianche che vanno dalla città ed entrano verso le aree montuose, e sono un obbrobrio, un qualcosa che impatta pesantemente sul territorio, la cui utilità viene meno quando poi non c'è neanche la manutenzione di questi canaloni. Infatti, se voi andate a Sarno troverete dei canaloni che sono intasati con la vegetazione, dove con l'andare del tempo si accumula materiale, e su questo ci sono una serie di diatribe in atto su chi deve prendersi cura della pulizia di questi canaloni. E quindi dinanzi a questa tipologia di approccio al problema, quindi cercare di risolverlo con l'ennesima colata di cemento, diciamo che un'altra possibilità poteva essere l'utilizzo dell'ingegneria naturalistica, andando ad affrontare il problema a monte delle zone a rischio frana, cioè andando a inserire tutta una serie di strutture che si integrano bene con il territorio, fatte per lo più con materiale biologico, quindi con palizzate, alberi che possono crescere all'interno di essi, con una serie di accorgimenti tecnici tali per cui io posso ridurre l'impatto della pioggia su queste zone, ridurre al minimo l'impatto visivo, non come le vediamo, come le abbiamo adesso passando da quelle parti. E poi c'è un problema legato alla manutenzione, oggettivamente, perché essendo materiale organico va incontro a consumo, ha bisogno di essere manutenuto, e quindi c'è la possibilità di avere una ricaduta pratica sul territorio anche in termini lavorativi, perché io posso avere delle persone che possono controllare queste strutture e nel contempo anche creare dei percorsi geoturistici lungo i quali posso avere persone che possono fruire di questo bosco che viene manutenuto in maniera adeguata. La manutenzione del bosco può essere in alcune zone d'Italia crea lavoro sia in termini di turismo, ma anche opportunità, perché tutto il materiale di risulta della manutenzione del bosco può essere utilizzato per le centrali a biogas, cioè ci sono tutta una serie di ricadute pratiche utilizzando dei sistemi di difesa attiva del territorio in cui l'uomo è protagonista, sono delle ricadute economiche sia dirette che indirette sul territorio. Però, invece, come dicevamo prima, serve una pianificazione per ottenere questo, bisogna spendere dei soldi in ottica al medio-lungo termine, e questo può diventare addirittura un investimento, oltre alla messa in sicurezza del territorio. Questo può portare anche benessere alla zona, alle comunità locali. Certo. Diciamo che l'idea però della difesa attiva del territorio è un'idea che ha difficoltà ad entrare nell'immaginario, diciamo, dei nostri politici. Io spero che sia legato più a un fattore di mancanza di lungimiranza e di apprezzamento di certe cose, perché non si conoscono i benefici effettivi. Quindi la mia speranza è che nel rendere le persone più fargli conoscere queste opportunità possa anche far sì che nel futuro possiamo affidarci più a ingegneria naturalistica che a ingegneria edile, non so se mi spiego, insomma, perché colate di cemento come queste non si devono vedere più. Come quando noi guardiamo il mare e insomma l'idea che il livello del mare si stia alzando, dei cambiamenti climatici eccetera ce lo fa immaginare, avremo sempre più bisogno di scogliere che ci proteggono dalle mareggiate sempre più violente, ma anziché fare le scogliere potremmo fare le barriere soffolte, cioè degli altri sistemi che abbattono l'energia delle onde e non hanno un impatto visivo. È un altro esempio, no, di come noi possiamo approcciarci al territorio non considerando il territorio un qualcosa di statico, ma come qualcosa di dinamico, e noi dobbiamo evolverci con lui. Noi viviamo il territorio e la vita è qualcosa di dinamico. Assolutamente. Ed è necessario che noi sviluppiamo anche dei sistemi in cui siamo in grado, attraverso i quali siamo in grado di affrontare i cambiamenti in atto. Non a caso a livello europeo si è tanto parlato delle società resilienti. Che cos'è la resilienza? Non è altro che la capacità di riuscire a mitigare un effetto di un cambiamento. Una società è tanto più resiliente quanto più è capace di riuscire a reagire in maniera positiva a dei cambiamenti che le portano, che sono incipienti. Un sistema basato sul cemento o su semplice costruzione edilizia non è resiliente. Basti pensare ad esempio a quante città lungo il Tirreno sono state, vicino all'area costiera, sono state costruite sulle dune, e queste dune erano tra l'altro un serbatoio di sabbia che mano a mano che gli anni passano il mare tende a erodere, e ci troviamo le case che prima erano lontani decine e decine di metri dalla linea di costa, adesso c'è il mare vicino. Ciro, allora potremmo parlare altre due o tre ore di questo argomento, ma il tempo è tiranno e tra poco abbiamo un altro argomento molto interessante, ovvero le novità che vengono dal Forum per l'Acqua Pubblica, e che con due eventi molto importanti si sono avvenuti nell'ultimo periodo tra una trasmissione e l'altra. Quindi grazie mille per essere intervenuto e per quello che ci hai detto, e speriamo di risentirci presto. Grazie a voi per l'attenzione. Ciao, buona Ciro. Serata a tutti. Buona serata, grazie. Sì. Allora, adesso un'altra pausa musicale e poi torneremo in voce. Yeah. allora torniamo in diretta e passiamo, diciamo, da situazioni per così dire locali, se Sarno può definirsi tale, a questioni di carattere globale, e in particolare perché non abbiamo avuto modo di parlarne nelle trasmissioni precedenti, ma ci sembrava importante ricordare quanto discusso nei momenti assembleari del Forum Alternativo Mondiale dell'Acqua, che si è svolto a Brasilia, quindi capitale del Brasile, tra il 17 e il 22 marzo scorso. E per questo abbiamo in collegamento telefonico Renato Di Nicola, che pronto? Ha partecipato, che salutiamo, e che ha partecipato a nome del Movimento Italiano per l'Acqua e anche della rete europea, insieme anche altri rappresentanti della rete europea per l'acqua. E quindi allora, innanzitutto magari ricordiamo che cos'è il Forum Alternativo Mondiale, perché noi potremmo darlo per scontato, ma in realtà, diciamo, è un appuntamento che si costruisce in alternativa rispetto a un momento di discussione che è quello istituzionale. Quindi magari partiamo da questo per poi arrivare a raccontare che cosa si è discusso e quali sono state anche le proposte dai vari momenti assembleari. Pronto, Renato? Ci senti? Forse è caduto Renato. Al momento che se proviamo a richiamare. E allora, piccolo problema tecnico, adesso stiamo rimediando, e allora magari lo anticipo io, questa piccola nota introduttiva. Il Forum Alternativo Mondiale è un appuntamento costruito e organizzato dai movimenti sociali, realtà associative, organizzazioni sociali, in alternativa e quindi in contrasto al Forum Mondiale dell'Acqua, che invece è organizzato e promosso dal Consiglio Mondiale dell'Acqua, che di fatto è tenuto in mano dalle multinazionali, dalle grandi multinazionali, anche dagli stati, ma in maniera, diciamo, ad avere una certa complicità nei processi di mercificazione. Vai. E pronto? Privatizzazione. Ecco, allora siamo. Pronto? Era caduta la linea con Renato. Pronto? Sì, ci senti? Pronto? Ci sente. Renato, mi senti? Pronto? Sì, a te sento. Ok. Devi parlarmi a te. Ah. Allora, quello che dicevo era appunto che però alla fine ho fatto io, visto questo piccolo problema tecnico, un'introduzione su cos'è il Forum Alternativo Mondiale dell'Acqua, che si è svolto appunto a Brasilia, che appunto è in contrapposizione al forum ufficiale tenuto in mano sostanzialmente guidato dalle grandi multinazionali e da alcuni stati. Ora, quello che credo che sia interessante è capire quali erano i temi al centro della discussione dei momenti assembleari del Forum Alternativo Mondiale e dell'Acqua, e quali sono state anche le proposte con cui si è usciti da quell'ambito. Allora, beh, innanzitutto ovviamente dovete immaginarvi che ciao a tutti, ovviamente, per immaginarvi questo controforum era un controforum partecipato da 7.000 persone di 35 paesi, ma ovviamente soprattutto da brasiliani, e che ovviamente vivevano e vivono una condizione sociopolitica non molto particolare in questo periodo, nella quale c'è un attacco concentrico a tutti i beni pubblici e beni naturali, beni comuni, e un attacco anche a tutte le possibilità, le capacità, l'agibilità, una volta si diceva agibilità politico-sindacali, di vario tipo e di vario genere, non solo sulla questione di Lula, ma anche su proprio la distruzione dei diritti sociali più importanti. Volevo sottolineare che uno dei primi incontri che Temer, il presidente che si è diciamo golpista, che ha fatto il colpo, è golpista, sì, che era il vicepresidente di Dilma e che è diventato presidente, che non ha nemmeno il 3% delle adesioni a livello di sondaggio a livello nazionale. Ecco, una delle prime cose che ha fatto lo stesso giorno in cui hanno estromesso Dilma, si è incontrato, cioè, con 4-5 persone rappresentanti della Coca-Cola, della Nestlé e di altre multinazionali. L'argomento del giorno era, cioè, come poter dare in concessione l'acquifero Guaraní del Brasile, Argentina, Paraguay, Uruguay a queste multinazionali. Ora, proprio senza almeno avere la faccia di dire beh, aspettiamo qualche giorno, no, proprio lo stesso giorno così. Non perché quindi il governo del PT fosse un, diciamo, un governo rivoluzionario, eccetera, eccetera, ma per far capire perché poi avvengono determinate cose. Quindi è ovvio che una delle discussioni più grandi, centrali, anche perché erano quelle vitali per il paese, è l'accaparramento delle fonti idriche da un lato e la distruzione della qualità delle fonti idriche dall'altro. E quindi da un lato la voglia, l'interesse che si è dimostrato anche attualmente, perché qualche settimana fa c'è stata un incontro ancora più grande a San Paolo del Brasile con altre multinazionali, soprattutto svizzere, per questa storia del Guaraní. E quindi citiamo il fatto che l'acquifero Guaraní è un grande acquifero che è tutto enorme, ha una portata, è molto grande, anche se non è il primo del mondo, e ha una capacità di ricarica, di ricarico straordinaria, quindi non è soltanto che ha tantissima acqua, ma anche questa grande capacità di ricarico, che quindi fa gola delle multinazionali che devono appropriarsi del loro futuro e non del nostro, ovviamente. Quindi una delle discussioni è stata questa, perché poi tra l'altro questo si chiama acquifero Guaraní, e Guaraní è la lingua e l'insieme dei popoli che abitano quelle zone. Quindi sia l'accaparramento delle fonti, sia la distruzione e l'inquinamento delle fonti d'acqua e dell'ecosistema avvengono soprattutto nelle zone dove vivono gli indigeni, cioè quelle zone che non sono state ancora toccate o toccate relativamente dalla distruzione e dal saccheggio delle multinazionali. Insieme appunto all'appropriazione delle fonti c'è anche il fatto che c'è una grande discussione interno al paese su come si debba gestire l'acqua del rubinetto, per parlarci, perché il potere sta cercando di fare una legge nella quale si toglie allo Stato una serie di possibilità di controlli su questa gestione e si dà più potere alle municipalità di gestione alle municipalità e alle aziende che vogliono concorrere alla gestione dell'acqua. Ora, a noi sembrerebbe teoricamente, insomma, è una destabilizzazione, l'acqua gestita dai territori, che bene, no? Il problema è che in quella situazione data in Brasile, può comportare il fatto che mentre lo Stato fino adesso è riuscito qualche volta a frenare su dei processi di privatizzazione totale, se va in mano a delle municipalità che non hanno lo stesso potere di resistenza rispetto alle multinazionali, queste possono crollare. Qui non parliamo solo di San Paolo, di grandi città, ma anche di micro e piccole città, e quindi c'è un problema che non è di lana caprina sul fatto che tutto il movimento, o quasi tutto il movimento, chiede la statalizzazione dell'acqua, non la rimunicipalizzazione dell'acqua, e questo li pone anche spesso molto in conflitto con la realtà indigene, che invece non sono per la statalizzazione, ma sono per la proprietà, condivisa, pubblica e comunitaria. L'altro, certo. E l'altro tema invece è quello proprio dell'inquinamento delle fonti idriche e di tutto l'ecosistema. Adesso se ne potrebbe parlare tantissimo, ma solo per fare un flash. Adesso non mi ricordo perché ho 61 anni, quindi ho 62 anni, quindi ogni tanto perdo dei nomi, mi scappano, eccetera. Però adesso in una certa zona qualche tempo fa è crollato un pezzo di montagna che era dove c'era una miniera chiusa da poco per la ricerca di oro della multinazionale Gold canadese, che tirava, cioè che puliva il materiale grezzo attraverso l'arsenico. Al crollo di questa montagna e di tutto quello che c'era sotto, insieme già all'inquinamento che c'era precedentemente, c'è stato un disastro totale. Cioè praticamente tutte le acque dei fiumi, dei laghi, delle cose, si è inquinato completamente, moria di pesci totale. Ci sono praticamente quasi più di 500.000 persone che di colpo, da un momento a un altro, si sono trovati senza niente. Cioè, in un terremoto, ecco, per dire, ti casca la casa, muore qualcuno e poi tu ricostruisci, cerchi di fare qualcosa. Cioè lì proprio non hai niente, perché non puoi coltivare, non puoi pescare, non puoi raccogliere, no? Quindi i tre anche modi di produzione, diciamo così, che esistono in Brasile, non puoi fare assolutamente niente. Quindi ci sono masse di popolazioni che si spostano all'interno del Brasile, o per ragioni di sempre più aridità di alcune regioni, oppure perché, pur essendoci tantissima acqua, quest'acqua viene contaminata e non sanno cosa fare. Quindi veramente, adesso può sembrare una visione biblica, ma è così, cioè non è che è uno scherzo, purtroppo, cioè, è così. E il guaio è che qui non se ne parla assolutamente per niente, e non colleghiamo il fatto che quello che noi verifichiamo nei nostri territori, nei nostri mari, di fughe di migliaia di persone da territori X, non individuiamo anche come causa, cioè quello del cambiamento climatico e quello della distruzione dei beni comuni sui territori, per cui la gente non sa più che cosa fare. Quindi, diciamo, quindi sono le diciamo cause di un modello estrattivista che non tiene conto appunto dell'impatto, sì, sia di medio lungo termine come i cambiamenti climatici, che di sì, breve termine come appunto l'inquinamento, che quindi poi implica l'impossibilità delle comunità locali di sopravvivere in quel determinato territorio. È solo che è, diciamo così, questo se lo metti insieme al fatto che il Brasile è uno dei paesi dove c'è la discrepanza economica tra i più ricco e il più povero è enorme, molto più grande di anche di quello che c'è a livello mondiale. Ovviamente ti metti in una condizione per cui è chiaro che gli argomenti fondamentali che sono stati discussi siano stati questi, ed è chiaro che diciamo così, la prevalenza non è stata tanto quella di dire puntualmente dopo che cosa fare, perché c'è stata la prevalenza dell'arrivo di centinaia di persone da varie comunità, che tra l'altro dormivano nelle tende proprio dove si faceva il suono, quindi noi stiamo parlando di pezzi di comunità che venivano, no? Che del cui l'obiettivo fondamentale era quello di far ascoltare la propria voce, anche al di là delle discussioni che noi, dei ragionamenti che noi possiamo fare quando parliamo dell'acqua. Quindi quando ti arriva una comunità che ha avuto questa situazione e ti viene a parlare di quello e ne parla per mezz'ora, tu non gli puoi dire soltanto sì, adesso però mettiamoci d'accordo su che cosa fare, perché è giusto quello che diciamo, ma dobbiamo capire. Quindi molto del tempo, no, è stato questo foro sociale, in particolare a Brasile, è stato soprattutto dare voce alle comunità brasiliane, soprattutto brasiliane oltre che latinoamericane, per cui il documento che ne è uscito fuori è un ottimo documento di analisi, di grido degli oppressi e dei poveri e degli sfollati della terra, ma diciamo così, poi non c'è stata la possibilità, la capacità, il tempo anche per poter dire benissimo ok, facciamo questo. È ovvio che però c'è stata una conseguenza concreta, che è nato l'Osservatorio Nazionale per la Difesa dell'Acqua Bene Comune, che è la prima rete nazionale che si costituisce sull'acqua, che si sostituisce nel paese brasiliano, perché questo foro alternativo è stato fatto diciamo così, senza che ci fosse una struttura precedentemente. Quindi diciamo così, se dobbiamo dire, vogliamo fare a conclusione, il risultato più forte che c'è stato a questo livello è stato quello che si sta creando concretamente una struttura nazionale di opposizione a questi processi di distruzione, di privatizzazione, di commercializzazione del bene acqua, contro le multinazionali che vogliono accaparrarsi e distruggere il territorio. Questo è un risultato importante, e l'altro risultato, che è un po' più piccolo per i brasiliani ma per noi importante, è quello che siamo riusciti a far capire a molti brasiliani che anche noi da queste, dalle altre parti del mondo subiamo gli stessi processi, con meno violenza, con meno out, con meno violenza immediata, ma che i processi sono gli stessi e che comunque noi lottiamo, perché c'è spesso, mettetevi nei panni di persone che stanno dalla mattina alla sera a che fare con questi problemi che vi dicevo, vedono arrivare noi che comunque non essendo ricchi, ma comunque rispetto a loro lo siamo, perché siamo riusciti ad andare addirittura in Brasile, no, per parlare di queste cose, e cioè loro non sanno che noi lottiamo, non sanno che cosa facciamo. Quindi parlargli di, per esempio, che in Spagna il sindaco di Terrassa in Catalunya gli hanno fatto saltare due volte la macchina, gli hanno fatto attentati perché stava rimunicipalizzando, è un tema importante, perché attraverso questo capiscono che anche se in tono minori, no, ci sono le cose, che noi abbiamo fatto un referendum in cui hanno votato 27 milioni di persone per dire no alla privatizzazione, è importante, cioè, certo. E io devo dire che la preoccupazione che avevo che non ci capissero bene proprio per questo grande divario, invece poi ho visto anche io personalmente, insomma, finito un intervento assembleare, cioè le domande che mi facevano, le cose su cui mi sottoponevano, evidenziavano il fatto che avevamo colto questa in modo come sorpresa il fatto che anche noi stavamo... C'era un'analogia comunque tra le vertenze. Dico, c'era un'analogia tra le vertenze. Sì, assolutamente, comunque ti riconoscevano, e questa è la cosa importante, ti riconoscevano, dice, cazzo, cioè non sei l'imprenditore del puntini puntini che viene a bofonchiare parole sull'acqua, ma sei uno che dice guarda, da me è successo questo, cioè no, non siamo la stessa cosa, perché viviamo situazioni differenti, ma siamo sottoposti alla stessa devastazione e saccheggio che hanno loro. E appunto, perché siamo proprio, ovviamente siamo prolungati su questo, no, però perché adesso un po' mi dispiace tagliare con l'accetta, però volevo... No, ma figurati, anzi io, così perlomeno un discorso, diciamo, dà un'idea, no? Una grande, certo, fotografia della situazione. Certo. E andare poi nei particolari servirebbe molto più tempo. Però appunto, visto che la devastazione e il saccheggio si compie ogni giorno, anche qui in Italia, e più volte